Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. A vedere le immagini che hanno trasmesso le TV locali e che sono rimbalzate sui siti di molti quotidiani online si rimane di stucco. A Castellammare di Stabia la statua del santo patrono Catello si ferma sotto la casa del vecchio boss. Nelle immagini si vede un familiare del patriarca che intima la fermata e poi, dopo qualche minuto, alza il braccio e dà il via alla partenza. Francamente raccapriccianti per il potere del silenzio, dell'omertà e della paura che scatenano. Questa è cronaca e invito tutti voi a cercare su YouTube le immagini per rendervi conto della drammaticità. Drammaticità che continua anche dopo, perché il sindaco Luigi Bobbio si sfila la fascia tricolore, ritira il gonfalone comunale e se ne va, seguito dalla scorta, con queste parole catturate da qualche registratore pirata: lo sapevo che facevano una porcata. E già, il sindaco lo sapeva, perché già l'altro anno infuriò la polemica con il vescovo Felice Cece, che si difese dicendo che in realtà la sosta era qualcosa di antico, di tradizionale, legato alla cappella di Santa Fara, che, coincidenza delle coincidenze, è proprio sotto la casa del vecchio boss Renato Raffone. La vergogna di quelle immagini, sulle quali poco si sono soffermate le analisi dei giornalisti, colpiti più dal potere di Don Renato, per me è proprio il silenzio della cittadinanza, che da anni assiste senza batter ciglio o quasi a questa sceneggiata. Nelle immagini catturate dalla TV accade l'incredibile: si vede il sindaco e scorta che se ne vanno da soli, e quando raggiungono una via laterale molti passanti apostrofano Bobbio al grido di «Vergogna, vergogna, e chi ti vuole? Non sei neanche stabiese!» Mentre questo accadeva, il vescovo invocava la protezione di San Catello sui portantini. Morale: il boss e i portantini con la protezione divina, il sindaco senza questa e senza quella dei cittadini. Viva l'Italia, buona vita e a domani!